come dico di solito, dopo il GR di Radio Popolare si torna in diretta 7:47 o quasi per questo martedì 10 settembre, giornata di altri suoni nella rubrica del Breakfast Club. È una prima puntata, è un inizio, siamo ben contenti di farlo con la label di Nicola Fazzini, Alessandro Fedrigo, un'equipe che ha portato con nome Nusica.org sonorità che stanno perfettamente in questo contenitore, oltre che colte, interessanti e curiose, anche con un gusto non indifferente. È il momento di presentarvi il lavoro che dà continuità già dal titolo al primo opus. Questo è una continuità, è Opus 2, con un quartetto, un featuring che è di un chitarrista scandinavo, Björn Solli, e un frontman, un pianista, Piero Gaddi, che è qua in diretta telefonica con noi. Buongiorno Piero, benvenuto. Ciao a tutti, grazie dell'invito, graditissimo. Graditissima la tua voce, seppur un po' assonnata, ed è comprensibile, ma tanto sei pianista, per cui insomma, certo, questo diciamo è una parte, se vogliamo, meno importante, però l'entusiasmo è tanto, perché il lavoro che ho ascoltato per tutto il weekend, oltre che a tenermi una compagnia, come ho detto, molto particolare, colta, allo stesso tempo di gusto particolare, ha trovato con Piero una espressione, è il caso di dirlo, espressione, con una tavolozza di colori, di timbri, una dinamicità di insieme veramente, adesso ne ascolteremo, che merita di essere all'interno di altri suoni. Ci puoi dire qualcosa di più a proposito di questo tuo lavoro? Questa continuità è nello stesso tempo una genesi. A te la parola, Piero. Allora, la continuità sta nella formazione, perché tu sai che nel jazz si cercano sempre mille collaborazioni, sì. È anche bello, però se uno deve scrivere cose particolarmente impegnative o approfondire, insomma, dei terreni inesplorati, il fatto di farlo con persone che conosci da anni, con cui hai lavorato, che stimi, e che danno il loro contributo fattivo poi al conseguimento di un buon risultato, è importante. Quindi Opus 2, proprio perché la stessa formazione di Opus 1 e anche il tipo di scrittura approfondisce delle cose che avevo già in Opus 1 e che secondo me si sono, diciamo, delineate meglio in questo secondo lavoro, ecco. Quindi sono molto soddisfatto, e anche i ragazzi che hanno suonato con me, che io citerei se posso. Devi. che sono Filippo Pedolla al contrabbasso, Fabrizio Desideri sassofoni e clarinetto, Andrea Beninati alla batteria e violoncello, perché suona due strumenti così diversi, e Björn Solli, naturalmente, il nostro ospite norvegese che ormai ci segue, con cui lavoro ormai dal 2017, e quindi insomma, è una presenza importante nella mia vita artistica. Sì, lui è un tecnicone, per così dire, ma anche un grande cuore, secondo me. Sì, diciamo grande... Sì, è grande tecnica, però si mette al servizio, ecco, esatto. Una cosa importante. Volevo, visto che al martedì parliamo di sport nella rubrica dalle 8, davo anche anticipazione che lui sarebbe il tipico cestista che ha un grande cuore, che si mette molto a disposizione, ecco. Sì. Però è anche bello da vedere, bello da ascoltare. Assolutamente. Quindi io metto già a commento musicale questo brano che abbiamo selezionato per dare presentazione a questo tuo lavoro. Allora, intanto noi possiamo continuare a fare qualche chiacchiera per quanto riguarda non solo il tuo lavoro, che vede 9 brani, di cui 8 di tua composizione e uno da Fabrizio Desideri, clarinettista e sassofonista. Ho intuito bene in questo caso? Perfetto. Allora, parliamo un po' di te a questo punto. Come, visto che è la prima volta che ci conosciamo e ci incontriamo, un po' di formazione e ispirazione che ha portato questo approfondimento e questo studio per i tuoi percorsi, Piero? Sono un pianista che nasce come pianista classico e poi si a un certo punto devia abbastanza la sua traiettoria, quindi divento jazzista in seguito a 30 anni, ecco, abbastanza tardi, e però chiaramente la mia formazione si sente, e anche dal punto di vista degli ascolti, dei gusti, ha molto la musica da camera, quindi ci sono delle cose che richiamano quel mondo, e anche delle cose che richiamano il progressive, perché comunque sono di quegli anni, quindi hanno lasciato il segno anche con tutti gli ascolti giovanili, e credo che ci siano appunto tutte queste cose, e anche la musica popolare influisce in alcuni brani, per questo che stiamo sentendo, tra l'altro, che è più di ispirazione post-boppistica, però sì. si riferisce, è il Linchetto, e si riferisce a un piccolo gnomo che popola i nostri monti. Io sono montanaro, sto in Garfagnana. Ah, ok, terra bellissima, tra l'altro. Bellissima, sì. È piena di boschi, è piena di strane creature, fra cui il Linchetto, che è un po' maligno, gioca dei brutti scherzi. Fa dei dispetti ogni tanto. Bravo, fa dispetti, arriccia le code ai cavalli, mentre uno dorme tranquilli, ecco, quando va tenuto un po' un po' a distanza, ecco. non è pericolosissimo, ma fastidioso, diciamo così. Beh, in musica è quanto mai gradevole il brano che subito ha attirato la mia attenzione. Classica contemporanea, musica da camera, è stata la mia prima impressione, è un aspetto, anche se siamo in Garfagnana, però lo racchiudiamo nell'aspetto mediterraneo, ecco. Trova una micro sensazione di sottofondo costante. Dal Linchetto, che vi garantisco è innocuo in questo caso, anche se di prima mattina, ascoltiamo qualche nota, poi torniamo in diretta con Piero Gaddi. A tra poco. Vai. Grazie Piero. Grazie a te, ciao. Avevo detto che è innocuo, anzi ha un grande gusto, questo mitologico Linchetto dalla tradizione da boschiva, silvana, della Transilvania, pensa come... della Transilvania, perché mi hai parlato di creature che possono essere un po' inquietanti, in questo caso no, nulla, non sono vampiri, no. Molto meno dei vampiri, no. È Linchetto, è un gnomo, un po' così, ogni tanto è imprevedibile, come il martedì di Radio Città Fujiko, come le mie gaffe nell'entusiasmo per presentare il lavoro Opus 2. Una continuità nella formazione, nell'ispirazione, e se troviamo in questi brani un aspetto eterogeneo, sono legati comunque dalle ispirazioni di cui vi abbiamo parlato in precedenza. L'interplay tra di voi, ho sentito in questo brano, appunto, che tu hai definito legato a un modern jazz, a una tradizione post-boppistica, ma assolutamente con sguardo moderno. C'è anche... com'è il dialogo tra di voi per dare, insomma, motivo di questa composizione, l'interplay? Ma in questa composizione in particolare è fondamentale, nel senso che comunque abbiamo alcuni appuntamenti a cui ci dobbiamo, insomma, tutti, esatto, riferire, però poi dopo dentro la struttura siamo abbastanza liberi. Poi lo stesso fatto che dell'imprevisibilità, cioè chiaramente i ragazzi sanno a quale personaggio ci si riferisce, quindi nell'improvvisare si cerca un effetto che sia quello di sorpresa, di spigolosità, però nel divertimento, perché chiaramente è un gioco, è una figura mitologica, ma che si raccontava ai bambini, magari anche per farli stare tranquilli la sera, farli andare a letto. Certo. Arriva il linchetto, attenzione! Sì, che alla fine poi lo ritroviamo, secondo me, un po' in composizione che dà un fil rouge a questi brani, perché è un disco che ho trovato, certo, come un giardino. A proposito di vegetazione, ho trovato alcune parti in cui, giustamente, non in tutti i giardini troviamo la gemmatura di nostro gradimento, potrebbe essere anche a volte un po' spigolosa, come tu hai detto, ma sempre legata poi al percorso che ci dà motivazione di riconoscere, di essere leggibile nel gusto musicale e nell'intuizione. Ecco, questo passaggio, ecco, in questo momento, ecco, ok, e capisci perché è necessario avere quell'aspetto spigoloso. È un disco colto, è un disco molto particolare, pur restando con un'ispirazione che, come abbiamo detto, vede nella tradizione e non solo, ma in un linguaggio moderno, la proposta di ascolto, ha anche motivo di introspezione. Scusa le mie omelie di recensione, però è questo che... Oh, William, sto ascoltando ammirato. A parte la Transilvania, che questo, insomma, è stato un lapsus geografico. Vi aspettiamo a Bologna? Bah, perché no? Ho qualche amico a Bologna, da vedo se riesco a farmi invitare. Dai, perché è interessante la proposta con Opus 2. Stiamo ascoltando adesso questo brano che dà l'apertura, Trashunte. Ci puoi dire qualcosa di più? Poi ci salutiamo, non ti disturbo più. Non mi hai disturbato affatto, William. È un piacere. Allora, il brano Trashunte è quello che ho composto, quello più impegnativo dal punto di vista della composizione, perché ci ho messo qualche mese. E lo riprendevo in mano, aggiungevo delle cose. E l'idea, perché avevo questa idea del fatto che appunto tutto si trasforma, niente si distrugge, chiaramente è un concetto che non ho inventato io, come puoi immaginare, e però volevo renderlo in musica, nel senso che volevo che gli elementi che giocati in un terreno che era inizialmente un quasi tardo romantico all'inizio, quasi di musica cameristico, poi ritornassero completamente differenti, trasformati nella parte più jazz rock che segue. E appunto questo ha richiesto buone ore di lavoro, però credo che poi la cosa funzioni e sia interessante. Cioè, se chiaramente al primo ascolto alcune cose uno si lascia trasportare e non le sente, però se riascolta, certo, dici: ah cavolo, questa cosa era nel basso, ah ma prima la faceva il violoncello, ah ma poi dopo la fa il clarinetto, quindi diciamo comincia a prendere delle connessioni per cui sente queste trasformazioni anche decise, per cui ecco, il materiale in realtà è musicale è poco, ma con questo poco sono riuscito a fare questa composizione che a me piace molto, insomma vedo che anche il pubblico quando la suoniamo rimane abbastanza quantomeno attento, stupito, attento, è attento e stupito. Certo. Beh, è un disco ultimo consiglio, oltre che un consiglio totale, ma la particolarità, lasciatelo scorrere. Let it bravo. Go, lasciatelo bravo, scorrere. Bravo. Bravo tu, e rimporta tutti questi, tutte queste attenzioni anche agli altri componenti della formazione. Io ti auguro una buonissima giornata e ti aspetto a Bologna. Grazie per il bellissimo regalo. Grazie. Grazie a te. A presto. È stato un piacere, William. Ciao, ciao a presto. Caro. Buona giornata. Ciao. A te. Ciao. Piero ha citato il progressive, io che vengo, saremo coetanei penso, anzi sicuramente lui è più giovane, però così dalla voce, a intuizione, anche dai gusti musicali coetanei, ha citato il progressive, a modo mio ci sento tanta fusion. Opus 2, protagonista Piero Gaddi e il suo quartetto col featuring del chitarrista Bjorn Solli. Ha dato il via alla rubrica Altri Suoni edizione 2024-2025. Dopo la pubblicità, il Move to Groove del martedì e protagonista sarà l'inizio. A tra poco, buon ascolto!